705. Soufflé di farina di patate. Zucchero grammi 100, farina di patate grammi 80, latte mezzo litro, uova numero 3 e 2 o 3 chiare, odore di vaniglia o di scorza di limone. Ponete lo zucchero e la farina in una cazzaruola e versateci il latte di accio a poco per volta mescolando. Mettete il composto al fuoco affinché assodi, girando il mestolo senza curarvi di farlo bollire. Aggiungete la vaniglia o la scorza di limone e quando sarà tiepido mescolateci i tre rossi delle uova, poi montate le chiare ed unitecele bel bello. Versatelo in un vassoio di metallo e collocato sopra il fornello copritelo col coperchio del forno da campagna fra due fuochi e aspettate che gonfi e rosoli leggermente. Allora spolverizzatelo di zucchero a velo e mandatelo subito in tavola, che sarà lodato per la sua delicatezza, e se ne resta sentirete che è buono anche di accio. Questa dose potrà bastare per 5 persone.